Tenta. Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. There is an Italian saying: patti chiari, amicizia lunga. I will defend Roe v. Wade and I will defend women's rights to make their own healthcare decisions. Secretary, and we have come too far to have that turn back now. You can say that that's okay, and Hillary can say that that's okay, but it's not okay with me. Listen what I say. It's pretty clear. It's pretty clear you won't admit that the Russians have engaged in cyber attacks against the United States of America, that you encouraged espionage against our people. I don't know Putin. He said nice things about me. If we got along well, that would be good. I know Michelle, your tomatoes are great, but after the last weeks, let me be very frank, your speech are better than your tomatoes. And it's an incredible honor. It's an incredible privilege to be here with you. Hey Barack, you know I am a huge fan of you. You know I follow from the first speech in, first speech for the presidential run in February 2007 in Illinois. When I listen the speech of Michelle, l'avevamo lasciato due anni fa. Finally, maybe when I sing when they go home. Lì gli è partito un po' il. Finally, I found some at the same level of Barack Obama, Michelle Obama. Thank you so much for your incredible journey. Dai, Matteuccio. Guarda che mi sta migliorando di giorno in giorno, eh. Secondo me sta prendendo lezioni in inglese. Bravo Matteo. Secondo me un 7 se lo merita. Dopo aver sentito invece Clinton Trump, stralci della notte, eh. Stralci della notte. Com'è invece Obama, patti chiari? Ah, era Obama, eh. Ve lo faccio risentire. Questo è Barack Obama, cioè patti chiari, amicizia lunga. Dai, è una babele di lingue. Obama che parla italiano, Trump e Clinton che parlano inglese. Ovviamente nell'ultimo dibattito mi hanno già annoiato, eh. Parlano delle solite cose, la Clinton pro aborto, diritto all'aborto, e Trump no, Trump mettiamo un muro, insomma le solite cose. Già annoiato anche il dibattito americano. Comunque secondo i sondaggi ha vinto la Clinton in l'ultimo dibattito di questa notte. Secondo i sondaggi americani, ma ha vinto al 52%, eh? Quindi sono lì l'ultimo dibattito. Comunque sono le 6:34. Oddio, anch'io adesso mi ha preso un attimo lo sturbo e parlo. Allora, voglio salutare subito la grandissima Veronica Gentili, buongiorno. Ma buongiorno. Good morning, people. How are you? How are you doing? Fine, thanks. Oh, allora, your English is perfect, Milan. Sentitela qua, ma discetta anche in francese, la Veronica. Oui, je peux parler aussi en français, hein? Se divento premier l'abbiamo risolto, posso andare dappertutto. Vi rendete conto? Vi rendete conto? Ma cosa abbiamo scovato? Cosa abbiamo scovato? Bella, intelligente, intelligente, bella. Poliglotta, capito? Possiamo aggiungere, esatto, al curriculum. Esatto, poliglotta. Veronica Gentili, pensatrice poliglotta sul Hai Fatto capito? Quotidiano. Allora, insieme a te, cara Veronica, c'è il grande Vincino. Vincino, come stai, Vincenzo? Insomma, Eccolo qua, dai, dici tu qualcosa in lingua, in palermitano ce lo puoi dire. No, quest'ora del mattino appena svegliato. Insomma, in palermitano, no? In palermitano, che vuoi che ti devo dire in palermitano? Facci un saluto. Ai. Non mi viene, non si salutano. Si incontrano e si sputano in un occhio, non si salutano. Meglio tinto conosciuto che buono a conoscere. Tipo il cattivo conosciuto che il buono da conoscere, che è la novità da conoscere. Vabbè. Allora apriamo subito il Parlamento, perché qua celiamo, scherziamo, ma il momento è grave. Vorrei un attimo di concentrazione, cara Veronica, caro Vincino, devo dare una notizia pessima. Dici. La notizia è pessima, che necessita anche un attimo di concentrazione. Allora, cara Veronica, caro Vincino, devo dare una comunicazione ferale. Ci ha lasciato Radio Padania. No. Cioè, non è che proprio ci ha lasciato, però Radio Padania è stata venduta. Mi si incrina anche la voce. Ma non è finita. Non è finita così. Radio Padania, Vincino, è stata venduta al calabrese Suraci, patron di RTL. E c'è una nemesi, amici che di Radio meraviglia. Padania. Ma poveri amici di Radio Padania, che continuerà a trasmettere su altre frequenze, sul web. A Roma non si sentiva mai, però riuscivo a prendere manco per sbaglio. Ma adesso magari invece... A Palermo figurati. No, guarda, che in Sicilia invece arriva. Andrà fortissimo, sì. Me lo immagino. Ma no, dai, possiamo dire una parola di conforto agli amici di Radio Padania, Veronica? Tu sei tanto così democristiano, dilla, vai. No, Vincino, per me è una notizia così. Gli amici di Radio Padania venduti al calabrese Suraci. Ma non doveva, era la stampa che doveva morire, la radio invece continuava, no? Con Salvini muore pure la radio, proprio. È negato in tutto questo. Solo le magliette sa cambiarsi, quel deficiente totale. Mamma mia! I radicali, la loro radio è da 40 anni, tutti la tengono precisa, pulita proprio ogni giorno. Vabbè, adesso. Tutto. Sono meravigliose, non hanno un deputato, però la radio è stupenda. Non voglio fare una polemica che non farò. Guarda, sono 200 deputati leghisti dappertutto, no, niente, manco una radio di scuola. Ma avevo detto una parola di conforto. Mai al governo, vogliamo i radicali al governo. Ma avevo detto una parola di conforto. Questa ma sarebbe allegria, come dire, no? No. Gioite gente, vedo gli uccelli per l'aria, poco a Roma tutti contenti. No, l'immondizia per la strada, sono felici, ramazzo di qua e di là. Avevo detto una parola di conforto, abbiamo preso una deriva. Ma di chi è la colpa? Storia della radio, non lo so di chi è la colpa, non ci sono, non so, penso siano finiti i fondi, sai com'è. Ma non è del nostro amico Morelli? Ma no, non lo so, no, ma no, lui, povero, no. Povero nostro no, no, no, no, chiedevo seriamente, cioè lui è stato bravo, no? Ma sì. Ma che è stato bravo? Se l'hanno venduta era negato pure lui. Cioè. Ma non sai neanche chi è. L'ho visto una volta in foto a qualche parte a un dibattito, il direttore di Radio Padania, dai, non so neanche chi è. Io volevo instillare il dubbio, voglio mandare un grande abbraccio agli amici di Radio Padania, che peraltro continua a trasmettere. Vabbè, ma stiamo parlando da 10 minuti di Radio Padania adesso. Sì, possiamo infatti forse. No, possiamo andare. Oggi io mi vesto di nero, però possiamo andare oltre. O di verde. Allora, da che parte la dobbiamo pigliare qua, Vincino? La questione. Aspetta, invece Radio Padania non trasmette più la sonda Schiaparelli. Questa è arrivata, ha fatto un atterraggio, diciamo, un disastro. Ragazzi, nessuno trasmette più. Io sto facendo un gesto apotropaico in questo momento. Sì, è cambiato l'amministratore vostro pure tra poco. Sì, va bene. Eccoci qua. va bene, allegria! Ci vorrebbe Mike Buongiorno in questo momento per tirarci su di morale. No, dico, da che parte la dobbiamo prendere il dibattito con l'Unione Europea? Una noia mortale, Veronica, dimmi no, tu. Lì non ce la possiamo fare, anche perché non c'è nemmeno il sole ancora, non si può. Non ce la possiamo fare. Possiamo rimanere sugli Stati Uniti se vuoi. Sugli Stati Uniti, che ci devi dire degli Stati Uniti, forza? Contro Trump, cosa ci devi dire? No, che la tristezza di questa campagna elettorale è sconfinata, che è veramente, credo, la cosa più triste a cui abbiamo assistito negli ultimi anni in politica estera. Sta rivalutando la campagna per il referendum in Italia. Quasi quasi qua ci si diverte. Guarda. Quasi quasi sì. Per esempio, no, veramente. Vincino, tu ti diverti sulla campagna elettorale italiana, ma come dire, notizie buone in giro, no? Levano le sanzioni, è stupendo, come non è che levano le sanzioni, ma non si sa perché tu c'hai delle sanzioni. Ho capito, vabbè, ma non è che chiunque, tutti hanno delle sanzioni. No, dai, io non ho sanzioni. Tu sei riuscito sempre a fare tutto in preciso sul momento, sulla che ti dica. Ah, cioè, sono in ritardo sul bollo del motorino. Tu non hai mai preso una multa, vero, sciocchina? Lascia stare la multa, che guarda, aspetta che sulla multa ci arriviamo, perché devo dire una cosa tra poco sulla multa. Me la sono tenuta lì, non ti preoccupare, non me la sono dimenticata. No, teniamo lì da parte, non ti preoccupare che ci arrivo. No, ma la questione delle sanzioni, perché sei contento, Vincino? Che ti tolgono un po' di more, un po' di come dire, un risparmio netto. Ma è un condono. Ma è quello che ha pagato. Ma io amo i condoni, guarda, sono stupendi i condoni. È una cosa, cioè, arriva il condono e uno paf, si mette a posto, invece di stare 10 anni a rateizzare, cosa. Paf, no. Veronica, dille tu qualcosa. Lo Stato incassa ed è felice pure lo Stato, tutto va bene. Poi il condono chi agevola? Agevola tutti quelli che hanno dichiarato tutto. Veronica, non gli evasori, Veronica, fai un po' la comunista come si deve. Dilli qualcosa. Non è esattamente così, cioè, come diciamo, no? Allora, facciamo... sono brutti. Perché? Io conosco condoni bellissimi. Tu non siamo tutti brutti. Contenti dal punto di vista personale. Chi non ha pagato cartelle e c'è ancora pendenze è contentissimo. Diciamo però che ci sono dei poveracci che il fisco l'hanno sempre pagato in maniera regolare, che le multe hanno iniziato a rateizzarle. Perché devono essere arrabbiati loro? Perché sono invidiosi di me? Perché? Beh, insomma, sono più fessi, sono più cretini. Questa invidia sociale. Ma io ho pagato tutto quello che sono riuscito a pagare, guarda, io pago sempre tutte, a volte non allora riesco a pagare tutto. Allora non sei tu l'esempio giusto, cioè, stiamo parlando di persone che non hanno pagato delle cartelle, dicendo tanto prima o poi una soluzione si trova. No, non è vero, non è così, guarda, è l'angoscia, guarda. Equitalia è una tale angoscia che uno non paga, che uno non paga. Per le modalità vessative che aveva, il modo intimidatorio, le minacce sull'ipoteca alla prima casa, tutto giusto. Ma da quello a fare l'ennesimo condono fiscale, di cui la morale della favola è: se non le pagate le tasse, non c'è problema. Sì. Tanto non è un condono. Non è un condono. E come lo devi chiamare? Scusa, Vincenzo, come lo devi chiamare? È una sanatoria. Una rottamazione, come dire? Una rottamazione, vabbè, abbiamo capito. Veronica, volete che me le tengo? Credo che sia abbastanza utile l'intervista che ha rilasciato su tutto il tema Mario Monti, che sappiamo è un personaggio invidio molti, che ha portato l'Italia al disastro. Falla finire. Aspetta, è inutile, tanto noi non dobbiamo prendere voti, che ci facciamo questi discorsi fra di noi? Quell'intervista è interessante, punto. Non è che io voto Monti o che mi piace Monti. Di Monti perché la politica di questo governo sui condoni sia assolutamente insensata. E secondo me è spiegato molto bene. Per Vincino hanno un senso, gli tolgono un po' di more, un po' di sanzioni. Ha seguito l'austerity in tutto, dov'è l'ipocrisia? Ti dice che la politica sui condoni fiscali non può essere una politica da seguire. Ha ucciso l'Italia, è venuto su. Io vorrei mettervi d'accordo così. È un golpista Monti. Lui è napoletano, hanno fatto un golpe, hanno dato il governo legittimo che c'era, l'hanno costretto alle dimissioni. Adesso un golpista, non esagerare, che poi si arrabbia, ha chiesto il senatore a vita, ha ricattato Napolitano, diceva ma che c'entra, stiamo discutendo di quello che ha detto, delle critiche che ha fatto in termini di vabbè, allora aspetta, voglio mettervi d'accordo, Piantala non era lei, a te, no, era a Monti, va bene. Allora, però, voglio mettervi d'accordo su questo, gli è partita la vena, Vinci, voglio mettervi d'accordo su questo, sono sicuro che vi metterò d'accordo sulla campagna per il sì. Ragazzi, andate a Repubblica, su Repubblica, pagina 10, io l'ho pubblicata sul mio profilo Twitter, non è uno scherzo, ve lo giuro, c'è una foto che proviene, sai Veronica da dove? No. Dal Kenya, ve lo giuro, non è uno scherzo, l'ho guardata 5 volte, ci sono 4 Masai, avete presente i Masai, vestiti da Masai, con a fianco basta un sì, la campagna per il sì dei Masai, non è uno scherzo, ve lo giuro, l'imprenditore del Kenya, Pasquale Tiritò, cioè, mi sembra tutto una barzelletta, Tiritò ha messo 4 Masai testimonial per la campagna referendaria, quindi abbiamo Obama, i Masai, la sonda Schiaparelli, come scrive oggi, come fa Vincino oggi nella sua vignetta, vota sì. Ma anche speravo che parlasse, però non ha parlato. È arrivato strafassata. L'ultima parola è stata sì, della sonda Schiaparelli, basta, i Masai per il sì. Ma l'hai scongiuro. Messa questa foto da qualche l'ho parte, messa sì. Su Twitter, vai sul profilo, ti prego, vai sul profilo durante il traffico, anche perché... dopo il traffico, l'avevo tenuta lì da parte, c'è questa notizia, guarda, la trovo qua su un giornale, parcheggio permesso quando decide il vigile, sono le nuove autonomie, io credo che qui Veronica Gentili qualcosa ci potrà dire, perché è successo un episodio ieri a Roma increscioso, tra poco. Non so se votare sì o votare no, fammi pensare, Mila, mandami il traffico per favore, traffico. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Ma ve li vedete D'Alema, Brunetta, Di Battista insieme a decidere la nuova Costituzione? Certo Renzi, sarà pure bello, atletico, sportivo, simpatico, ma i giovani continuano a non trovare lavoro. Oh Maria, sono Anna Cretevo, stiamo a sentire, stamattina mi è toccato registrare la radio trasmissione, cioè, tra la Veronia e l'Aurora lì, paroloni, mi è toccato fermare tutto, andare sul vocabolario a vedere che volevano dire. Io ho fatto la terza media, sono un po' ignorante, dimmi che parlino un po' più sciolte, hai capito? Vai, ciao! E non è accettabile che ancora oggi questa riforma della Costituzione invece consideri i nostri amici cose, oggetti e non essere senzienti. Era la brambilla con il cane Sogno, la prima bestia, pare, ma non è detto, entrata in Parlamento, caro Vincino. È la prima bestia, tu me lo no, puoi... No, ce ne sono... È pieno. Ma è stato eletto? No, credo. Che non sia arrivato con le sue 4 zampettine senza no, essere eletto. Non è come il cavallo di Caligola, però no, breve, no. Dai. Esatto. Allora, signori, eccoci qua. No. Il parcheggio è permesso quando decide il... Ah no, aspetta, prima ho visto che hai ritwittato, ma l'hai visto che belli Masai con, le loro vesti rosse, i bastoni. Mi hai dato una ragione per essere di buon umore tutto il giorno. I Veramente, Masai. Grazie, sciocchina. Sciocchina e due. Va bene. Allora, segno due. Allora, ieri Veronica Gentili era a Roma e un uccellino mi ha detto che ha parcheggiato in una maniera un pochino improbabile e qualcuno le ha fatto notare da feldmaresciallo prussiano che, insomma, il parcheggio era un po' così. E c'era anche un vigile. I milanesi a Roma? C'era anche, anche un vigile nei pressi. Ha detto: tranquilla, tranquilla, vado io dal vigile. Ha parlottato col vigile. Il vigile gli ha detto: tutto a posto. Adesso, cara Veronica, cara Veronica, che ora, ci abbiamo. Che abbiamo Roma detto? Versa in condizioni molto difficili, la giunta non c'è, manca l'assessore, poi trovi l'assessore, poi se ne va. Uno deve anche un attimo ingegnarsi per sopravvivere. Che poi, poi Vincino, devi capire, l'ha terrorizzata ieri, ha detto non dirlo in radio, perché c'ha questa cosa di travaglio, no? Adesso c'ha una macchia, cioè qualcuno adesso potrà ricattarla, dire... Mi costerai il posto di lavoro, se diciamo certo. Come stanno le cose, e poi mi toccherà venire lì. Certo, perché ha parcheggiato un'ora in maniera un po' così e ha parlottato col vigile a dire guardi, chiuda un occhio, non lo so, non sappiamo che cosa si siano detti Vincino. Però, queste sono le politiche che si praticano da Roma in giù, no? Scusa, purtroppo. Capito? Che c'è Vincenzo? Gol è quando l'arbitro fischia. Rigore quando l'arbitro fischia. Effettivamente. Allora, vabbè. Abbiamo archiviato. Tra l'altro, ma ce l'hai mandato il selfie? Certo, certo. È arrivato? Lavoro io, eh. Ma sei da sola in questo selfie? Mica pezzino le bambole. Sì, è perché purtroppo eravamo in troppi in quello di gruppo. Va bene. In quello di gruppo eravamo in troppi. Fermiamoci qui. Va bene. Purtroppo sono da sola, però poi aprirò dei fronti su Twitter in cui non preoccuparti. Va bene. Però io da 3 giorni ho iniziato una rubrica, caro Vincino. Tu non mi segui, lo so, quando non ci sei in onda, ma la rubrica è lo psicologo di D'Alema. Sì. Abbiamo il D'Alema del giorno. Sei stato eletto psicologo di D'Alema per oggi. Senti un po' qui, Io vengo insultato, io vengo calunniato. Essere insultato e calunniato le fa male? No. Perché io penso di fare una battaglia, di essere nel giusto. Allora, caro dottor Vincenzo Gallo, in arte Vincino, psicologo di D'Alema, qual è il problema di D'Alema? È dal 77, io l'ho disegnato D'Alema la prima volta nel 77. Sì. È dal 77 che lui si sente molto di più di quello che è. Questo è il suo vero problema. Ecco. Lui ha una presunzione di se stesso proprio infinita. In generale noi tendiamo a essere più umili di quello che siamo, no? Lui invece presume di se stesso. Lui presume che lui è stato il miglior governo al mondo, non ha fatto nulla, un disastro totale. È un'analisi interessante. Non so se la collega sua dottoressa psicologa Veronica Gentili conferma questa analisi che affonda le radici nell'infanzia. Che l'autostima di D'Alema sia molto molto alta, nessuno può discuterne. Questo non c'è proprio. Ce l'avessimo tutti quell'autostima, vivremmo, capito? Tirandocela dalla mattina alla sera, sono d'accordo. Mi sembra una bella analisi. Come la possiamo definire in termini psicologici? Iperego? Non so, iperego. Un ipertrofico. Ego ipertrofico. Soffre, eccola qua, prima diagnosi, soffre di ego ipertrofico, va bene. Questo lo vuoi, che infatti poi legittima anche questa sua antipatia a cui lui stesso non si oppone, no? Comunque lui talmente si piace nella sua essenza, nel suo tutto, che va bene anche quella. Va bene, soffre di ego ipertrofico. Vi ringrazio, dottori psicologi di D'Alema. Oggi mi avete dato un'analisi. Vincenzo, a questo punto noi ci dovremmo quasi salutare. Vuoi lasciarci? Questo iperego è il motivo per cui lui quando esce con il cane non raccoglie la cacca, perché lui è troppo. Questo non è vero. Ha bisogno di qualcuno dietro. Come è stato fotografato, visto, l'ha testimoniato Maria Teresa Meli, l'ha detto in televisione, io ci credo. Come di uno dietro? Cioè del... Sì, ha bisogno, lui senza qualcuno dietro del corteo dietro, che al tempo lui ne aveva 10 di quelli che stanno dietro. Cioè c'è un addetto a raccogliere la cacca del cane di D'Alema? Lui non la raccoglie. Io vorrei intervistarlo. Più volte fotografato senza che lui si guardava intorno, vedeva se c'era nessuno e via. Però e diceva ci sarà qualcuno, diciamo, ci sarà qualcuno, e andava. Beh, vorrei intervistare il raccoglitore di cacca di cane di D'Alema. È un bel lavoro, potrebbe essere con i voucher magari pagati. Vi ringrazio e vi saluto, alla prossima. There is an Italian saying, patti chiari, amicizia lunga. Il segnale orario vi è offerto da Tecnologie e logistica di magazzino Modulblock. Avanti anni luce.